versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, siamo in diretta 16:30 primi 38 secondi agli studi di Milano, grazie dell'ascolto dei podcast, indirizzo la versione di Oscar @radio24.it per proporvi. E andiamo subito alla trasmissione di oggi, che dopo un po' di che non lo facevamo è dedicata solo alle vostre opinioni, quindi per ascoltare le vostre telefonate 800 24 00 24, e per leggere le vostre opinioni agli sms 349 238 6666. Il tema è presto detto, perché anche se c'è un pasticcio in corso dell'ultima ora, e ne parleremo tra poco con una controproposta del presidente della Commissione Europea ai greci, non si capisce a nome di chi, già smentita dai tedeschi, però la domanda, le domande che vi faccio sono relative al referendum greco di domenica prossima. Allora, prima domanda: vorreste che fosse consentito anche in Italia, dove non è consentito dalla Costituzione, votare con referendum sull'euro, i trattati dell'Unione Europea? Sapete che nella nostra Costituzione non sono possibili i referendum sulle materie fiscali, sui trattati internazionali. È giusto o no il ricorso alla sovranità popolare? Inciso, per me sì, però chiusa parentesi, mi interessa sapere questo da parte vostra. Secondo, se foste in Grecia, come votereste? Votereste sì o no alle... Sapete che il referendum è stato proposto all'ultima ora, spiazzando l'Europa, da Tsipras, chiedendo un sì o un no alle proposte avanzate dall'Unione Europea, BCE e Fondo Monetario, che emendano in maniera sostanziale, ma in realtà su particolari, su minuzie, cioè sulle aliquote IVA e un po' sull'anticipo della riforma delle pensioni, le proposte greche. Dico minuzie non perché non le considero rilevanti, ma perché il mio giudizio su quel documento, anche quello europeo, è che in ogni caso non rende solvibile la Grecia l'anno prossimo, cioè non è con l'1% di avanzo primario che la Grecia può pagare le rate. Quindi mi sembra che dopo 6 mesi anche la proposta europea non colga il punto di fondo, ed è una follia aver perso 6 mesi così. Ma voi come votereste? Votereste sì o votereste no? Cioè, votereste accettando le proposte dell'Unione Europea perché è meglio restare nell'euro per la Grecia, o vi siete fatti l'idea che se foste greci direste: ma una volta per tutte ci chiedono cose non all'altezza, torniamo alla dracma e svalutiamo, e sa Dio come e a quel punto quando la Grecia avrà la possibilità di tornare sui mercati internazionali del debito, dopo il default completo che segue quello parziale già contrattato nel 2012, ma lì l'Europa ha accettato, perché quel 60% di valore in meno del debito greco di allora è stato tagliato ai detentori privati del debito. Questa volta il debito è per l'80% più nelle mani di creditori pubblici e per il 70% nelle mani dei prestiti bilaterali dei membri dell'Eurozona, e poi per quota parte degli strumenti europei, cioè dell'ESM, e poi c'è anche una quota aggiuntiva della BCE. E su questo è il punto, perché l'Unione Europea ha detto no a una ristrutturazione del debito, perché il credito è nelle sue mani e non di privati. Allora, iniziate a pensare di telefonarci, perché quello che mi interessa è verificare l'impressione che vi ha fatto questa modalità del tutto folle, ma questa è la mia opinione, di rimanere stupefatti di fronte alla proposta di Tsipras di far parlare il popolo sovrano, cioè i greci. Ecco, mentre telefonate per dirci la vostra, io vi dico subito i particolari di questa iniziativa dell'ultima ora, che da stamattina sembra in grado di poter di nuovo cambiare le carte in tavola. Credo che sia molto difficile, però sta di fatto che dopo che sabato, appresa la convocazione del referendum, l'Eurogruppo, cioè i ministri delle finanze europei, hanno reagito con una durezza assoluta dicendo: vi leviamo subito gli aiuti dalla mezzanotte del 30, cioè dalla mezzanotte di oggi, e a quel punto sarà anche molto complicato che la BCE possa tenere in piedi la linea straordinaria di liquidità attraverso la quale le banche greche, che questa settimana come sapete sono chiuse, tranne che alcune sono aperte nei prossimi 3 giorni per pagare le pensioni, ma senza la linea straordinaria di liquidità della BCE le banche europee, le banche greche non si reggono in piedi. Ecco, questa è stata la decisione sabato dell'Unione Europea, cioè, come dire, ci avete rotto le scatole, barate al gioco, fate finta di non capire. E il referendum lo consideriamo un atto di demagogia, una maniera per buttare il tavolo per l'aria. Tsipras ha detto con chiarezza che avrebbe chiesto ai greci di votare no alla proposta europea. Quando gli hanno chiesto ma sono in vantaggio i sì in Grecia, quindi verresti smentito sulla linea politica, ha aggiunto io non sono un uomo per tutte le stagioni, quindi come dire rimetterei il mio mandato, e a quel punto si aprirebbe una nuova questione, perché la Grecia avrebbe bisogno di rivotare per le elezioni, con le elezioni politiche, per avere un governo. E di fronte a questo, quando oramai tutto sembrava esaurito, perché i governi di tutta Europa si sono allineati alla durezza della reazione europea, ieri mattina non solo Juncker ha detto, non so con quale legittimità, di ritenersi offeso e tradito per il referendum greco. Secondo me è un grave errore che le istituzioni dell'Unione Europea esprimano sfiducia nella sovranità popolare, cioè l'Unione Europea e l'euro, nella mia modestissima opinione, possono vivere se hanno consenso e fiducia, non possono vivere sulla paura, cioè pensare che il consenso alle proposte europee in Grecia si maturi con il terrore di 6 giorni di banche chiuse, così i greci si spaventano e capiscono finalmente che devono dire di sì. Non mi convince per niente questa impostazione. Sta di fatto che questa impostazione, seguita fino a ieri, stamattina, anzi nella tarda notte, avrebbe registrato invece una novità nuova ancora da parte europea, perché Juncker, il presidente della Commissione europea, non si sa se avendo un mandato dai governi europei, anzi pare proprio di no, ha fatto una nuova controproposta dell'ultima ora al premier greco, dicendo evitiamo la follia della sospensione degli aiuti, se tu ci firmi un documento in cui accetti di massima l'accordo europeo e fai campagna per il sì domenica prossima, noi riapriamo le trattative fino a ottobre per modificare ancora qualcosa sull'aliquote IVA, ti consentiamo le aliquote IVA al 13% per gli alberghi, che è uno dei punti su cui i greci tengono duro invece che al 23%, e soprattutto potremmo aprire a quel punto un confronto anche sulla ristrutturazione del debito. 2 ore dopo la Merkel, questa cosa si è diffusa questa mattina sui siti online ed è stata il giornale greco Ekaterini anche a confermarla, 2 ore dopo aver appreso che questa controproposta in effetti è stata avanzata dal presidente della Commissione europea, e aver appreso che lì per lì ieri sera Tsipras aveva detto no, non ci penso neanche, vado al referendum e basta, a questo punto è emersa un'ulteriore circostanza, cioè molti dirigenti tecnici del Ministero dell'Economia e delle Finanze greco, che non hanno toccato palla in partita, perché la partita in questi 6 mesi è stata nelle mani del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dei politici, non dei tecnici del MEF greco, di cui Syriza ha sfiducia perché li considera espressione dei governi precedenti che hanno subito i piani europei, alcuni di questi dirigenti hanno detto al presidente del Consiglio greco ma che figlio bello, approfitta di questa controproposta, saltaci in groppa e fai altre controproposte, perché così li incastriamo nelle loro stesse contraddizioni, visto che l'Unione Europea sbatte la porta, poi dice vi leviamo gli aiuti, e all'ultimo secondo, evidentemente essendosi intimorita degli effetti su chi resta nell'euro di un eventuale no greco, rilancia. Allo stato attuale noi non sappiamo se fino a che siamo andati in onda non c'era traccia di una risposta formale di Tsipras, anzi pare che ci sia una risposta, ma non se ne conosce, non se ne conoscono i termini. La Merkel nel frattempo ha detto non vedo spiragli, quindi ha per così dire sfiduciato la controproposta di Juncker. Tenete conto che per avere effetto, cioè per non far spirare stanotte gli aiuti europei alla Grecia, bisognerebbe che ci fosse una riunione almeno telefonica, una teleconferenza dell'Eurogruppo entro stasera, per prendere atto di un'eventuale risposta positiva di Tsipras a questa controproposta che Juncker gli ha fatto, non a nome dei governi ma a nome della Commissione europea. Ecco, questo è il pasticcio. Io mi limito a dire che, visto il tema sollevato dai greci fin da 6 mesi fa, cioè quello della ristrutturazione di parte del debito dovuto questa volta a creditori pubblici, cioè a noi dell'euroarea, non a privati, arrivarci dopo 6 mesi in una controproposta, dopo che i ministri dell'economia e delle finanze europee hanno detto non se ne parla nemmeno per 6 mesi e gli hanno detto vi leviamo gli aiuti, io lo considero un segno della voglio dire, poco lucidità, a me verrebbe dire della follia anche europea. Io non simpatizzo con le posizioni greche, penso che sia stato un errore prendere la Grecia a bordo dell'euro, lo penso quasi dell'Italia, figuriamoci di un paese che in un anno su due, in 30 anni di bilancio pubblico, sono andato a vedere un anno su due, 13 anni su 30 per essere precisi, hanno avuto spesa pubblica superiore ai 10 punti al totale delle entrate pubbliche, quando dopo 7 anni che stavano nell'euro avevano ancora un disavanzo commerciale pari al 18% del PIL, cioè tutti i numeri che vengono prima dei 15 punti di PIL di deficit non dichiarato, che poi è emerso nel 2010, tutti i numeri di fronte ai quali noi siamo stati con gli occhi tappati. Ecco, allora, di fronte a questo, il problema della ristrutturazione ha una sua fondatezza, secondo me. Detto questo, mi si risponde, e adesso iniziamo con le vostre telefonate, che i trattati europei non consentono una ristrutturazione parziale del debito pubblico di un paese membro detenuto da altri creditori pubblici ed euromembri, la mia risposta è: a questo punto cambiamo i trattati. Mi si risponde: i trattati non consentono di restare all'Unione Europea un membro dell'euroarea che esce dall'euro e a quel punto deve uscire automaticamente dall'Unione Europea. Pessima cosa, dico io, cambiamo i trattati, perché nelle unioni monetarie, nella storia, si entra per scelta, ma si esce quasi sempre per causa di forza maggiore, perché o gli squilibri di bilancio dei pagamenti o quelli di finanza pubblica, non potendosi riequilibrare col cambio, diventa insostenibile il cambio e si è obbligati a uscire. Ecco, quindi siccome non esistono nella storia unioni monetarie per sempre, credere che l'euro sia per sempre è una sciocchezza, tanto vale invece prevedere procedure di uscita per chi vuole o non ne riconosce più le regole, ma che siano contrattate, cioè tali da diminuire il danno sia per chi esce, ma sia per noi che restiamo, perché a differenza di quello che dicono Padoan e Renzi, io penso che noi rischiamo di perdere molto di più di quanto non avremmo perso dicendo dei 35 miliardi che ci deve la Grecia rinunciamo a 10. Noi rischiamo molto di più in quanto aumento degli oneri del debito pubblico, perché i mercati si scatenerebbero. Quindi io penso che queste proposte concrete, l'Unione Europea non le ha avanzate, questi sono stati errori. Bisognava dare un tempo rapido, 2 mesi a un confronto, visto che Tsipras aveva vinto le elezioni su quella proposta. Se l'Unione Europea non la voleva adottare, dopo 2 mesi doveva dire: bene signori, allora dedichiamoci al cambio di alcune regole per consentirvi di fare quello che volete. Ma invece, dopo aver perso 6 mesi, reagire come bambini indispettiti al referendum, sputare sulla sovranità popolare, controlanciare all'ultima ora accettando di trattare sulla ristrutturazione, dà l'idea che l'Unione Europea è una barca di matti, scusatemi. Questa è la mia modestissima opinione, che però è fondata sul rispetto della sovranità popolare. Non si può credere di imporre cose se non hanno consenso. Poi io credo che abbiano un senso, ma se sono minoranza, e oramai anche in Italia vince chi pensa usciamo dall'euro, è un po' ridicolo credere di stare in unione monetaria se la maggioranza degli operatori economici, dei cittadini e dei contribuenti è contraria. Questa è la mia opinione. Iniziamo a sentire le vostre opinioni però. Giorgio, dalla provincia di Padova. Ah, buonasera signor Giannino, ecco. Se per me questa Europa qua ha 28 fuori e referendum popolare senza quorum, chi va a votare vota. Aspetti, perché io ammetto di non avere capito, lei ha detto? Questa Europa qua sì. Ha 28, sì. No, fuori. Referendum popolare e senza quorum. Ah, quindi insomma, senza quorum significa che la maggioranza di chi va a votare, qualunque sia la sua percentuale, deve essere secondo lei considerata decisiva, ho capito bene? Così tutti vanno a votare dopo, col quorum se ne fregano. Col quorum se ne fregano, perché c'è il giochetto di farlo fallire per il quorum. Posso chiederle la sua opinione sull'Europa 28 no, perché la considera incoerente ed è impossibile che paesi così diversi siano insieme? Ma è servita solamente a scappare a molta gente, hanno eluso, molti sono fuggiti a 28, molti sono scappati dall'altra parte, come la vedo io, multinazionali e banche si sono creati i nuovi schiavi dall'altra parte. È molto restrittiva, è molto restrittiva la mia visuale, perché ci vorrebbe una persona che abbia studiato, io sono una terza media. Vabbè, ma lei comunque la sua opinione conta come quella di tutti gli altri e vota come lei, ci mancherebbe altro che ci mettessimo a sindacare da questo punto di vista. Però Giorgio ha questa opinione secca. Sentiamo Albano che ci chiama da Milano. Buongiorno signor Oscar. Buongiorno. Io sono totalmente d'accordo con Tsipras, pur non essendo della sua stessa, non seguendo la parte sua linea politica. E dica esatto, perché. Dica però perché. Sono totalmente d'accordo, ma perché io ho 56 anni, ho iniziato a lavorare dal 76, lavoro oggi in centri commerciali, quindi sono a contatto comunque con tanta gente. Io c'ho una domanda proprio da asinello. Penso che 20 anni fa stavamo meglio di oggi. Noi, che bene o male, siamo una, come dire, una nazione dove siamo cresciuti rispetto magari alla Grecia, quindi posso immaginare... Noi siamo incomparabilmente più forti. La Grecia, per capirci, ha chiuso il PIL del 2014 a 180 miliardi, noi siamo a 1600 miliardi. La Grecia ancora oggi ha un disavanzo commerciale pari al 12% del PIL, non è più il 18 ma è il 12%. Noi abbiamo un avanzo commerciale, malgrado la nostra altissima dipendenza energetica, che è pari all'1,8% del PIL, cioè più di 43 miliardi di avanzo commerciale nel 2014, e al netto dell'energia il solo avanzo commerciale della manifattura italiana è superiore ai 100 miliardi. Ci sono solo 5 paesi al mondo che hanno un avanzo manifatturiero superiore a 100 miliardi, noi siamo in quei 5, quindi voglio dire, siamo incomparabilmente più forti, Albano. Però lei dice, capisco e condivido, se capisco bene, la nostalgia della lira. Esatto, ma primo, secondo, comunque Tsipras, se uno ha seguito la sua campagna elettorale, sta seguendo la sua linea. Ecco, no, in questo sono d'accordo con lei, è coerente, cioè non è che ha cambiato opinione. Cioè, noi in Italia, io faccio questo ragionamento, negli ultimi, prendiamo solo gli ultimi 20 anni, vorrei che qualcuno ci ricordasse quanti ministri dell'economia noi abbiamo cambiato negli ultimi 20 anni, giusto? Ma hanno seguito sempre una linea, cioè sempre quella. Beh, cioè, noi, il fatto che noi siamo andati a votare, abbiamo cambiato i governi, abbiamo fatto, cioè lei dice, sulle vicende dell'euro e dell'Unione Europea, destra, sinistra e tecnici l'hanno pensata allo stesso modo. Sono convinto, Albano, che in questo io tanto le do ragione, che mi fa un po' sorridere che oggi quelli di Forza Italia abbracino Tsipras, mi fa un po' sorridere, perché voglio dire, i fiscal compact hanno trattato loro. Però detto tutto questo, l'opinione di Albano è altrettanto chiara. Adesso torniamo tra 60 secondi con le strade, e c'è Roberto La Grosseto e Patrizio La Treviso che aspettano di dire la loro. La versione di Oscar. Allora, eccoci tornati in diretta, 16:48 primi, 33 secondi. Nel frattempo la novità, che è ufficiosa ma dovrebbe essere ufficiale, è che c'è una teleconferenza dell'Eurogruppo alle 19. Quindi questo significa che c'è una risposta di Tsipras alla Commissione, che la Commissione dovrà riversare l'Eurogruppo, e bisogna vedere a questo punto i ministri delle finanze dell'Euroarea che cosa penseranno della risposta di Tsipras, in cui i particolari ancora non ci sono noti. In ogni caso, dai catamerini si capisce che il referendum greco resta, quindi bisogna vedere, ma questo io lo do per scontato che sino all'ultimo secondo ci sono novità possibili, per così dire. Alcune delle opinioni di press MS, poi continuiamo con le telefonate. Per esempio Francesco dice: referendum in Grecia, perché non chiedere ai bambini se vogliono andare dal dentista? E attenzione però, Francesco, perché qui la sovranità popolare, se noi iniziamo a dire che è una scelta troppo delicata sulle materie complesse, aggrediamo le fondamenta del nostro modello di civiltà politica. E quello che c'è nella nostra Costituzione, i limiti al referendum per materie sono perché il legislatore costituente ci considerò dei bambini. La domanda che vi faccio è: vi sentite dei bambini? Non lo so, io penso che evitare il referendum fiscale è una maniera per approfittare di noi come contribuenti, visto che dove sono arrivate le tasse in Italia, però rispetto la tua opinione. Poi c'è chi pensa che Juncker è mosso dalla paura dei banchieri che all'ultimo secondo non vogliono pagare il conto dell'eventuale squilibrio dell'uscita dalla Grecia, e va bene, io non la penso così, ma comunque d'accordo. Poi molti che dicono che aver fatto ricorso al referendum all'ultimo secondo, finita la trattativa, è una cosa un po' demagogica, perché doveva dirlo e farlo prima. E io vi confermo che 3 mesi fa fu la Germania a dire a Tsipras al tavolo: ma perché non fai un referendum contrattandolo con noi? E lui disse: no, se lo faccio, lo faccio come dico io. E infatti esattamente ha fatto quello che aveva detto, rispondendo ai tedeschi, che in quel caso gli dicevano: vai a fare il referendum perché tanto lo perdi. E nel frattempo non si sa chi lo vince, perché a oggi i sondaggi sono ancora con il sì, quindi non il no, che vuole Tsipras, sopra il 50%. Molto sopra il 50%. Allora, continuiamo con le vostre idee. Irene, da Piacenza, come la pensa? Io la penso. Lei dice che erodiamo le fondamenta della rappresentanza popolare se neghiamo alla gente di esprimersi con un referendum su questioni di questo genere. Io le dico che non solo non le erodiamo, ma è il contrario. Cioè, se noi fossimo titolati a scriverci su queste robe, ma non perché siamo dei bambini, come lei dice, ma perché dentro ciascuno di noi non c'è un fiscalista, un giurista, un esperto di economia politica, un penalista, non sappiamo tutto. E se fosse così, ma allora perché mi devo far governare? Allora facciamo l'autogestione. Allora, io non sono titolata a scrivere questa roba, capito. E tantomeno non è quel babbeo del mio vicino. Lo traduco così. Irene dice: attenzione, il principio della delega della rappresentanza ha ancora un fondamento che su alcune materie prevale, perché è una questione di competenza a quel punto, su quello della sovranità popolare. È corretto. Certo, ma se le immagine, ma lei sente le persone di cosa parlano? Io lo sento e vengo anche bersagliato da molti insulti, perché no, non, ma io non per voglio imputare nessuno. No, lo so che no, ma lo sento bene. Che nessuno di noi, cioè, io non saprei cosa dire, e guardi, non faccio un lavoro dove la testa la uso. Lo capisco. Figuriamoci, abbia pazienza, ma cioè, io non voglio che. Sono proprio contenta che il mio vicino non si esprima. Ma la domanda che le faccio è: secondo lei, le istituzioni europee, quando Juncker, presidente della Commissione, che è l'organo autonomo indipendente dai governi, quindi dovrebbe racchiudere lo spirito dei trattati, la Commissione europea è questo, no? È il vigile dei trattati rispetto alla politica che vive nel Consiglio europeo e nei consigli dei ministri. Ha fatto bene, secondo lei, di fronte alla scelta dei greci di convocare un referendum, a dire mi sento tradito da questa idea? Io credo che dal punto di vista del bilancio delle opportunità, se un'istituzione europea dice, per quei paesi che consentono o convocano referendum, dicono state commettendo un errore, io credo che non faccia bene all'idea di Europa, perché mostra un'Europa che, come la dipingono i suoi più biechi critici, cioè in mano di funzionari non eletti come Juncker, che si permettono di dire ma che cazzo fate per votare la gente. Poi io rispetto il suo punto di vista, penso che però l'Europa, quando è fatta da nominati, ci dovrebbe pensare due volte prima di dire una cosa simile, perché si dà benzina esattamente al fronte della demagogia dei populisti, perché è più complicato dire che ha torto Juncker se Juncker dice io valgo per la mia competenza più della sovranità popolare. Tutto qui. Michele da Napoli, prego Michele. Buonasera Giannino, io ho sentito adesso una telefonata di Irene, io sono d'accordo su molte cose, l'unico sentimento che tutta questa vicenda mi ispira è lo sconforto da un lato e lo schifo dall'altro, sembra gli stracci in faccia che si tirano marito e moglie quando si arriva alla separazione o al divorzio. Sono un po' d'accordo, sì. Andiamo a rivangare vecchi rancori, piccoli dispetti, ma insomma questo tra marito e moglie è giustificato, ma fate a capo di Stato dove il fondo schiena che poi avrà la conseguenza di tutto è quella dei cittadini, non mi sembra da persone molto coerenti o da grandi statisti. Esatto, insomma, Per questo io dicevo due mesi di trattativa sapendo come la pensavano i greci, che non hanno cambiato idea, dopodiché se non c'era l'accordo vediamo di mettere sul tavolo delle procedure per limitare i danni. A me sarebbe sembrato più razionale piuttosto che metterci a dire da una parte i servi della Germania, che è l'obiezione di chi sta con Tsipras, e dall'altra di chi dice quelli vogliono continuare a mangiare a sbaffo, che ha un fondamento, ma naturalmente considerare i greci colpevoli di questo è quando noi, ripeto, abbiamo chiuso gli occhi per tanti anni sui numeri della Grecia. Ricordo a tutti che tra la sola primavera del 2012 e l'autunno del 2014, il cosiddetto secondo programma europeo di sostegno alla Grecia, noi abbiamo dato alla Grecia 154 miliardi, il suo PIL è di 180 miliardi, per non risolvere un beneamato piffero di niente. Roberto da Grosseto, prego Roberto. Buonasera Giannino, una domanda, cioè, prima di fare di esporre le mie opinioni, ma sì, in un modo. Secondo lei, se la Grecia non era in questa situazione all'interno dell'euro, non le dico se, ma le dico quando sarebbe fallita, non in se, ma quando? Guarda, non è certo, non c'è dubbio, sono d'accordissimo. Allora, quindi questo sto cercando di fare imparare a uno Stato che ha vissuto, esatto, fuori da qualunque logica, che esistono, sì, le logiche. Roberto, lei coglie il punto, una specie di maieutica per insegnare alla politica e ai greci a governarsi meglio. Questo in realtà è il fondamento del perché nel 2012 si addivenne al sì all'abbattimento del 60% del valore del debito pubblico detenuto dai privati e a dargli tutti questi aiuti. Purtroppo, come vede, però non funziona, perché i greci poi di fronte alla disoccupazione dilagante non pagano più le tasse, non si pagano più tra loro loro però votano chi gli promette il ben godi, cioè gli promette una roba che numericamente non si può fare, però ottiene i consensi, e questo è il paradosso di una democrazia, di un paese che dice chi se ne fotte dei numeri, chi se ne fotte se in Costituzione gli armatori non pagano le tasse. Ecco, follie totali. Patrizio da Treviso. Sì, buongiorno dottor Giannino. Giannino e basta, sì. Grazie. Ciao. Ascolta, io da quello che ho capito più o meno la pensiamo un po' tutti allo stesso modo, pur con, esprimendo vari concetti. Io dico solo una cosa. Io credo che più o meno quello che sarebbe successo alla Grecia era prevedibile da me, sentendo queste cose, sentendo questi numeri. Immaginiamo da questi statisti cosa avrebbero previsto. Secondo me loro si fanno il giochino di avere qualcosina a loro disposizione per 20 anni, un popolo disgraziato sotto le loro manine, e cosa penso di questo possibile default? Io penso che potrebbe essere, mi dispiace perché non ho dillo, idea. Dillo. Potrebbe essere un'occasione per il resto dei paesi per riflettere e capire, perché c'è anche qualcosa che riguarda direttamente noi. Grazie Patrizio, perdono con tutti gli altri, ma vedrete che nei prossimi giorni ci torniamo. E controllate con la 24, appuntamento come a domani.